what seemed to me to be a little missing was love towards the body, you know, a sort of a healing exercise. Quindi mi ha fatto questa metta, quindi questa gentilezza amorevole verso gli altri, ma quello che lui pensa che manchi è un po' un amore verso, verso il corpo, questo potere di guarigione. So the first is really just to offer our goodwill to the body. Quindi il primo esercizio è solo augurare benevolenza verso il nostro corpo. So we just use some form of blessing. May you be free of sickness. Or may you be healthy. May you be strong. Quindi è un auspicio che tu possa essere forte, che tu possa essere in buona salute. And in this way we begin to direct that goodwill towards the physical part of our nature. Quindi cominciamo a direzionare questa benevolenza verso la natura fisica della nostra, del nostro essere. Then we use an exercise from Tibetan Buddhism, which is an understanding that there is, shall we say, energy or something in the universe to help us. Utilizziamo una forma di buddismo tibetano che presuppone che ci sia una forma di energia nell'universo che ci aiuta. This is in the tradition is called the Medicine Buddha. Nella tradizione si chiama il Buddha della medicina. And I ask you to visualize just a light coming down upon you from above. Io chiederò di visualizzare, di immaginare una luce che scende su di voi dall'alto. Then we turn this into a ball which has a consistency of a fluid, a golden fluid. Questo si trasforma poi in una palla che ha la consistenza di un fluido dorato. It can be any color which you imagine to be a healing color. Quindi potrebbe avere il colore che voi immaginate che sia un colore di guarigione. And we slowly make this circle or rotate down the body. E lo facciamo lentamente girare giù a spirale lungo il corpo. Then we share this energy with each other. Poi condividiamo questa energia tra di noi. And then we can give some of this energy to somebody who needs help physically. E quindi poi possiamo dare questa energia a una persona che ha bisogno di aiuto fisicamente. And then finally we offer it to all beings in all directions. E poi alla fine lo offriamo a tutti gli esseri in tutte le direzioni. We start with contemplations about the body. Quindi cominciamo con delle contemplazioni sul corpo. In order to get our relationship to the body correct. In modo da avere una corretta relazione con il corpo. So the first is to undermine our idea of possessing the body. Quindi la prima è per sradicare la nostra idea del possedere il corpo. And I take an exercise from the Buddha himself about looking at the disgusting nature of the body. Quindi prendo un esercizio che viene dal Buddha stesso, che è osservare la natura disgustosa del corpo. And I'll explain that as I go along. And then we again do the exercise we did every evening about letting go of the body as me or mine. Qui facciamo l'esercizio che abbiamo fatto tutte queste sere in cui si lascia andare il corpo come me o mio. And then we contemplate the preciousness of the body. Poi contempliamo la preziosità del corpo. And then we do this exercise of healing. E poi facciamo questo esercizio di guarigione. Now I'm sure you've all begun to realize that this is a little bit of the new age. Come si dice new age? New age. New age. New age. So because it's new age, we have to, of course, sit in a circle. So, if we can just form a circle here. Thank you. have to make the circle a little smaller. We can make it smaller as we need to make it. Stiamo fanno anche più stretto, certo. Okay, so come closer. The only thing missing now is UH music. L'unica cosa che manca adesso è la musica new age. Un po' di più. Un po' di So you have to relax and get yourself into a pleasant meditative posture. Rilassatevi, mettetevi in una posizione piacevole e meditativa. And if you feel uncomfortable during the exercise, just feel free to change your posture. E se vi sentite scomodi durante questo esercizio, sentitevi liberi di cambiare la postura. And if you do it quietly, it doesn't disturb yourself or others. Se lo fate silenziosamente, non disturba né voi né gli altri. Ourselves to a stillness. Portatevi a un punto di quiete. So now we have two wrong relationships with the body. Allora abbiamo due cattive relazioni con il corpo. We think we possess it and we think we are it. Noi crediamo di possederlo e noi crediamo di essere il corpo. Possession and identity. L'idea di possesso e di identità. So just contemplating the idea of possessing the body first. Quindi prima contemplate questa idea del possedere il corpo. In ordinary life, with other things, if we like things we hold on to them, if we don't like them we throw them away. Con le altre cose, se ci piacciono noi ci aggrappiamo ad esse, se invece non ci piacciono le buttiamo via. And the way that we express this dislike in the body is a sense of disgust. Il modo in cui noi esprimiamo questo non amore per il corpo è un senso di disgusto. So the first exercise is to just go through the body from the top of the head to the tip of the toe and just try and visualize each part of the body as you go down. Quindi il primo esercizio è quello di scorrere il corpo dalla sommità del capo fino giù alla punta dei piedi e di osservare ogni sua parte man mano che si scende. And as you come across a part which raises a little disgust or a lot, just stay there for a while and accept that that is your relationship to that part of the body. E se arrivate a una parte del corpo che vi suscita un po' di disgusto, allora rimanete lì e realizzate il fatto che avete questo tipo di relazione con quella parte del corpo. So this is obviously very similar to our Vipassana exercise. Quindi questo è molto simile ai nostri esercizi di Vipassana. So there are obvious parts of the body which raise disgust, such as the intestines and bowels. Ci sono delle parti che ovviamente ci portano disgusto, che sono appunto sono gli intestini, tutta la parte dell'intestino. And there of course are all the fluids, blood, lymph, catarrh. Poi ovviamente ci sono tutti i fluidi, quindi il sangue, la linfa, il catarro. Urine, all the stuff, all lovely stuff. L'urina, tutte queste cose meravigliose. So as you go through the body, just take your time, and when you come across any of these parts which raise disgust, just stay there for a minute and know that this is part of your relationship to the body. And as we know, emotions do harm to the body. They're not good for the body, having that sort of relationship. Quindi scorrete il corpo e quando trovate queste parti che vi provocano disgusto, rimaneteci su per qualche minuto, perché questo indica che tipo di relazione si ha con quella parte del corpo. E sappiate che le emozioni hanno un effetto, ovviamente, sul corpo, e avere una cattiva emozione in qualche modo influisce. So try and find a part now which towards which you have this sense of disgust. Quindi trovate una parte verso la quale avete questo senso di disgusto. Having found that part, just stay there for a while. Avendola trovata, rimaneteci per un po'. And now think of that part as either chemicals or as some organ which has a function to do. Quindi pensate a quella parte o come a dei processi chimici o a un organo che ha una funzione. And see if your relationship changes. E vedete se la vostra relazione cambia. Then there are those parts of the body that we like and dislike. Queste sono quelle parti del corpo che amiamo o non amiamo. This is to do with our sense of beauty. Questo ha a che vedere col nostro senso della bellezza. And its opposite, ugliness. È il suo opposto, la bruttezza. And this is something, of course, which is culturally imposed upon us. Questa è una cosa che ci è culturalmente imposta. So now, what are your feelings towards your body? Allora, quali sono i vostri sentimenti nei confronti del corpo? What are you saying to yourself? Is it too fat, too thin? Cosa dite a voi stessi? È troppo grasso, troppo magro? See your face in the mirror. Guardate il vostro viso nello specchio. What are you saying to yourself? Ears are too big, nose too long. Cosa vi state dicendo? Le orecchie troppo grandi, il naso troppo lungo? And again, picturing your body and your face, remind yourself that this is an organism which has a job to do, which services you. Quindi di nuovo immaginando il vostro corpo, il vostro viso, ditevi che questo è un organismo che ha una funzione, uno scopo, ha un lavoro da fare. And that it's doing its best. E che sta facendo del suo meglio. It's the way we treat it, which often messes it about. È il modo in cui lo trattiamo che a volte crea dei pasticci. And finally there's the opposite, there are parts of the body that we are very attached to because of the pleasure they bring us. E poi viceversa ci sono delle parti del corpo a cui noi siamo attaccati per via del piacere che ci provocano. And as we know through our meditation, where there's an attachment to pleasure, there's also a lot of potential suffering. Quindi come sappiamo dalla nostra meditazione, dove c'è un attaccamento al piacere, c'è anche un potenziale di sofferenza. So let's just take the first two senses of seeing and hearing. Allora, prendiamo i primi due sensi, del vedere e del sentire, ascoltare. So how would you feel if your hearing and sight, if you began to lose your hearing and sight? Come vi sentireste se voi cominciaste a perdere il vostro udito, la vostra vista? We know from people with disabilities that such a disability does not have to undermine the quality of your life. Noi sappiamo dalle persone che hanno questo tipo di disabilità che essa non necessariamente toglie qualcosa, indebolisce la qualità della vita. But no doubt there is a great deal of suffering in losing our abilities. Ma senza dubbio c'è una certa quantità di sofferenza nel perdere questa abilità. So these sorts of contemplations undermine our possession of the body. Quindi queste contemplazioni in qualche modo indeboliscono il nostro senso di possesso verso il corpo. Moving now to the more deeper sense of identity, me and mine, me rather. Sto andando più in profondità verso il senso di identità, verso il me. We can now do again our contemplations in the evening, which remember are to undermine our obsession with health, beauty and life itself. Quindi possiamo ripetere le nostre contemplazioni della sera che servono proprio per sradicare questa ossessione che abbiamo per la salute, per la bellezza, per la vita stessa. So just repeating these phrases gently to yourself and accepting their truth value. Quindi ripetiamo queste frasi, punto vostro, accettando proprio il loro valore di verità. This body is subject to disease. Questo corpo è soggetto alla malattia. This body is of a nature to fall ill. Questo corpo ha in sé la natura di ammalarsi. This body has not gone beyond sickness. Questo corpo non è andato oltre la malattia. This body is subject to aging. Questo corpo è soggetto all'invecchiamento. This body has not gone beyond aging. Questo corpo non è andato oltre l'invecchiamento. This body is now in a process of aging. Questo corpo è in questo momento in un processo di invecchiamento. This body is subject to death. Questo corpo è soggetto alla morte. This body has not gone beyond death. Questo corpo non è andato oltre la morte. This body will die. Questo corpo morirà. So these contemplations undermine our identity with the body. Quindi queste contemplazioni minano il nostro senso di identità con il corpo. And just like metta, it's good to practice them a little bit every day. Proprio come la metta, è bene praticarli un po' tutti i giorni. So now we have to consider how precious the body is. Adesso dobbiamo considerare la preziosità del corpo. So the Buddha said that this was a precious rebirth. Quindi il Buddha ha detto che questa è una rinascita preziosa. That here we have this mixture of joy and woe and the intelligence to find our way out of our suffering, dukkha. E abbiamo quindi questo insieme di gioia e dolore e abbiamo un modo per, un'intelligenza per uscire da questa sofferenza, da dukkha. We can't be here without a body. Non potremmo essere qui senza un corpo. It's through the body that we've come to learn everything. È attraverso il corpo che noi arriviamo a conoscere tutto. What we've seen, what we've heard, and so on. Quello che abbiamo visto, che sentito, tutto, eccetera. It's through our body that we can create relationships. È attraverso il corpo che possiamo creare delle relazioni. And it's through the body that we do good works for the world. Ed è attraverso il corpo che noi facciamo delle opere buone per il mondo. And create good karma, develop our virtues. Creiamo buon karma, sviluppiamo le nostre virtù. And in most systems, it's the very breath of the body that we use to develop the seven factors of enlightenment. E in molti sistemi è proprio il respiro del corpo che noi usiamo per sviluppare i sette fattori per l'illuminazione. So now that we have a correct relationship to the body, our goodwill towards it will be that much purer. Quindi adesso che abbiamo una buona relazione con il corpo, la nostra benevolenza verso di esso sarà ancora più pura. And before I offer metta to the body, I like to apologize to it for all the dreadful things I've done to it. E prima di offrire metta al mio corpo, mi piace scusarmi con esso, chiedere perdono adesso per tutte le cose tremende che gli ho fatto. Whatever harm I have done to you, qualunque danno io abbia fatto a te, by thought, word and deed, attraverso i pensieri, la parola o le azioni, by way of greed, hatred and delusion, attraverso l'avidità, l'odio o l'illusione, l'ignoranza. Purposefully or not purposefully. Volontariamente o involontariamente. I am sorry for it. Mi dispiace per ciò. And I determine from this day on to treat you with care and respect. E mi impegno da questo giorno in poi a trattarti con rispetto and care. E cura. So now choose a phrase which for you expresses that goodwill for health within your body. Adesso scegliete una frase che esprime per voi questo questa benevolenza verso il corpo. May you be free of sickness and disease. Posso tu essere libero dalla malattia o dalla malattia, yes, dai disturbi? Yes. May you be well and strong. Che tu possa stare bene ed essere forte. Mm. So any such phrase will do, and just put it in the heart, repeat it in the heart and offer it to the whole body. Quindi una qualsiasi di queste frasi va bene, fatela scaturire dal cuore. E ripetetela. Some people when they're doing this visualize heat, some people visualize color. Alcune persone nel fare questo visualizzano del calore, altri un colore. It doesn't matter, it's just a way of directing our goodwill towards the body. Non ha importanza, è solo un modo per direzionare la nostra benevolenza verso il corpo. So let's take our time and go from the top of the head to the tip of our toes, offering this goodwill to all the parts of our body. Quindi prendiamoci un po' di tempo per scorrere il corpo, dalla sommità del capo fino alla punta dei piedi, offrendo questa benevolenza a tutto il corpo. Begin with the hair and scalp, offer your blessing there. Cominciate con la testa, insomma, con i capelli e il cuoio capelluto, e offrite lì le vostre benedizioni. Pour your loving kindness into your brain. Versate la vostra benevolenza, la vostra gentilezza amorevole nel cervello. Bless your eyes. Benedite i vostri occhi. Your ears. Le orecchie. The nose and all the nasal cavities. Il naso e tutte le cavità nasali. The mouth with its tongue, teeth, jaw. La bocca con la sua lingua, i denti, la mascella. Pour your loving kindness into your throat, the precious voice box. Versate la gentilezza amorevole attraverso la vostra gola, la preziosa scatola della voce. So the whole head feels warmed and energized. Tutta la testa è calda, energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Possa tu essere libera dai disturbi, dalla malattia. Possa tu stare bene, essere forte. Turning our attention now to the spine. Adesso poniamo la nostra attenzione sulla spina dorsale. So offer your blessing starting from the neck all the way down the spine. Quindi offrite le vostre benedizioni cominciando dal collo e andando tutto giù lungo la spina dorsale. Down the neck. Giù per il collo. Down the back. Lungo la schiena. Into the lower back. Nella parte inferiore della schiena, nel fondo schiena. Down to the very tip. Fin giù fino alla punta estrema. So the whole spine feels warmed and energized. Quindi tutta la colonna vertebrale si sente calda, energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Possa tu essere libera dai disturbi, dalle malattie. Possa tu essere forte e sana. Turning our attention now to the left shoulder. Adesso poniamo l'attenzione sulla spalla sinistra. Massage it with loving kindness. Massaggiatela con la gentilezza amorevole. Making our way down to the elbow. Poi andiamo giù fino al gomito. down towards the wrist. Giù verso il polso. And into the hand, massaging the hand with warm, loving kindness. E dentro la mano, massaggiando la mano con una gentilezza amorevole, calda. So the whole arm feels warmed and energized. Così tutto il braccio si sente caldo, energizzato. May you be free of sickness and disease, may you be well and strong. Posso tu essere libero dai disturbi, dalle malattie, posso tu essere sano e forte. Turning our attention to the right shoulder. Adesso poniamo l'attenzione sulla spalla destra. Massage it with loving kindness. Massaggiatela con la gentilezza amorevole. Making our way down towards the elbow. Scendiamo fino al gomito. Down towards the wrist. Giù verso il polso. And into the hand, massaging the hand with warm, loving kindness. Poi nella mano, massaggiando la mano con una gentilezza amorevole e calda. So the whole arm feels warm and energized. Così tutto il braccio si sente caldo e energizzato. May you be free of sickness and disease, may you be well and strong. Possa tu essere libero dai disturbi, dalla malattia, possa tu essere sano e forte. Turning our attention now to the chest area. Adesso mettiamo la nostra attenzione sulla zona del petto. So here you can bless each individual organ. Qui potete benedire ogni organo, ogni singolo organo. Or you can see it just as a felt space and pour your loving kindness into it. Oppure potete sentirlo proprio come uno spazio unico e versare la vostra gentilezza amorevole. A felt space. Uno spazio sentito. Offer your blessings there now. Offrite lì le vostre benedizioni. The whole area feels warmed and energized. Tutta questa zona si sente calda, energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Posso tu essere libero dai disturbi, dalle malattie. Posso tu essere sano e forte. Moving down into the midriff area where the stomach and the liver are. Poi scendiamo nella zona di mezzo, dove c'è lo stomaco e il fegato. And again you can bless each individual organ or just see it as a felt space. Di nuovo voi potete benedirlo organo per organo oppure sentirlo come uno spazio sentito. The whole area feels warmed and energized. Tutta questa zona si sente scaldata, energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Possa tu essere libera dai disturbi, dalle malattie. Possa tu essere sana e forte. moving down into the abdomen with all its varied systems. Scendiamo nell'addome con tutta la sua varietà di sistemi. Here again you can bless each individual part or just see it all as a felt space and pour your loving kindness into it. Anche qui potete vederlo come potete benedire le singole parti oppure vederlo come uno spazio sentito e versare lì la vostra gentilezza amorevole. Feels warmed and energized. Tutta questa zona si sente scaldata, energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Possa tu essere libera dai disturbi, dalle malattie. Possa tu essere sana e energizzata. Turning our attention now to the left hip. Adesso mettiamo la nostra attenzione sull'anca. Sinistra. Massage it with loving kindness. Massaggiatela con la gentilezza amorevole. Making our way down towards the knee. Scendiamo al ginocchio. Down towards the ankle, giù alla caviglia, and into the foot, massaging the foot with warm, loving kindness. Poi dentro il piede, massaggiando il piede con la gentilezza amorevole e calda. The whole leg feels warmed and energized. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Tutta la gente, la gamba si sente calda, energizzata. Che tu possa essere libera dai disturbi e dalle malattie. Tu possa essere sana e forte. Turning our attention to the right hip. Adesso portiamo l'attenzione sull'anca destra, massaging it with loving kindness. Massaggiandola con la gentilezza amorevole. Making our way down towards the knee. Scendiamo giù verso il ginocchio. Down towards the ankle. Giù verso la caviglia. And into the foot, massaging the foot with warm loving kindness. E dentro il piede, massaggiando il piede con la gentilezza amorevole, calda. The whole leg feels warmed and energized. Così l'intera gamba si sente scaldata, energizzata. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Tu possa essere libera dai disturbi, dalle malattie. Tu possa essere sana e forte. So now we've offered our loving kindness to the whole body. Abbiamo offerto la nostra gentilezza amorevole a tutto il corpo. Perhaps there's a part that needs special attention. So c'è una parte che richiede maggiore attenzione, un'attenzione speciale. So go there now and spend a few moments offering your loving kindness. Quindi andateci adesso e stateci per qualche minuto offrendo la vostra gentilezza amorevole. So now just opening up to the possibility of help from outside ourselves. E adesso apriamoci a questa possibilità di ricevere aiuto dal di fuori di noi stessi. Imagine coming down upon your head from above, just a shaft of golden light. Quindi immaginate che vi entri dal di sopra un raggio di luce dorata. Any color will do, whatever you feel is a healing color. Va bene qualsiasi colore, quello che voi pensate che sia un colore di guarigione. And as the beam of light falls down, it forms a ball just above your head. E mentre scende questo raggio forma una specie di cascata appena sopra la vostra testa. And as it falls into this ball, the ball takes on the quality of liquid. Mentre cade in questa palla, la palla assume la qualità di un liquido. And the ball begins to rotate. E la palla comincia a ruotare. Gently, slowly. Delicatamente, lentamente. So now just let this ball of warm, vibrant golden liquid touch the top of your head. Quindi lasciate che questa palla di liquido vibrante, energizzato, lasciate che tocchi appena il vostro capo. This doesn't have to be a vivid image, it can just be an idea. Può anche non essere un'immagine vivida, può essere solo un'idea. So the light shining down into this ball. Quindi c'è questa luce che splende all'interno della palla. And the ball gently rotating. La palla che delicatamente ruota. So let it now begin to spiral down through the head. Adesso lasciate che delicatamente scenda a spirale su lungo la testa. Turning everything into this warm golden liquid. E che trasformi tutto in questo liquido dorato caldo. Feel its energy entering into your eyes and ears, your nose, your mouth. Sentite la sua energia che entra nei vostri occhi, le orecchie, il naso, la bocca. And into the throat. E attraverso la gola. Still pouring down this golden light from above. Sta ancora versando questa luce dorata dall'alto. Into this ball which is now rotating around your head. In questa palla che adesso sta ruotando intorno alla vostra testa. Turning everything into this vibrant warm liquid. Trasforma tutto in questo liquido vibrante. Let the ball lengthen out over your shoulders. Lasciate che questa palla si estenda al di sopra delle vostre spalle. And let it begin to spiral down into the chest. E fate in modo che cominci a scendere a spirale lungo il petto. Feeling that warm liquid, vibrant liquid. Sentendo quel liquido caldo e vibrante. Your back, the front of your chest and deep inside. La schiena, la parte anteriore del vostro petto e dentro, in modo profondo. Light still pouring down from above. La luce sta ancora entrando dall'alto. Down through the head and the throat. Attraverso la testa e la gola. into this ball, gently rotating around your chest. Entra in questa palla che sta delicatamente ruotando dentro il vostro petto. Let it continue its descent into the midriff. Lasciate che continui la sua discesa nella parte mediana. Turning everything into this warm, vibrant liquid. Trasforma tutto in questo caldo liquido vibrante. The light still pouring down from above. Questa luce sta ancora entrando su dall'alto. Down through the head, the throat. Attraverso la testa, la gola. Into the chest. Nel petto. And into this ball, gently rotating around the midriff. Entra in questa palla che sta delicatamente ruotando in questa parte mediana. And let it continue now down deep into the abdomen. Lasciate che adesso continui a scendere profondamente nell'addome. The spine, the front. La spina dorsale, la parte anteriore. Into the arms and elbows. Nelle braccia, nei gomiti. Still pouring down from above. E sta ancora entrando dall'alto. Down through the head, the throat, the chest. Attraverso la testa, la gola, il petto. Through the midriff into this ball, gently rotating around the abdomen. Nella parte centrale, dentro questa palla che delicatamente ruota nell'addome. And let it complete its journey down through the rest of the arms and the legs. Lasciate che completi il suo viaggio attraverso le braccia e le gambe. Turning everything into this warm, vibrant, liquid gold. Trasformando tutto in questo liquido caldo, vibrante e dorato. And now with the in-breath, draw the energy from this ball with our own energy up the spine to the top of the head. Adesso con l'ispirazione risucchiate questa energia attraverso la spina dorsale fin su alla testa. This energy and our own energy. Questa energia è la nostra stessa energia. And with the out-breath, let it join with the new energy from above. E con la espirazione lasciate che si unisca a questa energia che arriva dall'alto. And let it all cascade down the body. E lasciate che scenda lungo il corpo come una cascata. And if there's a part of the body that needs special attention, let it go through that like water through a sponge. Se c'è una parte del corpo che richiede maggiore attenzione, allora lasciate che penetri in quella parte come l'acqua penetra in una spugna. And so now we can share this energy with each other. Adesso possiamo condividere questa energia tra di noi. With the in-breath, receive energy from your partner on the left. Con la inspirazione, ricevete energia dal vostro compagno sulla sinistra. And draw that energy with the energy from above and your own energy into your heart. E quindi attirate questa energia insieme alla vostra energia e all'energia che arriva dall'alto, portatela nel vostro cuore. And with the out-breath, offer it all to your neighbor on the right. E con la espirazione, offritelo al vostro compagno di destra. And if there's a part of the body that needs special attention, let it go through that part. Se c'è una parte del corpo che richiede maggiore attenzione, lasciate che attraversi quella parte. And now, if there's anybody who has a specific physical problem, they can come and sit on our magic seat and we'll zap them. Quindi adesso se c'è qualcuno che ha un particolare problema fisico, potrebbe venire a sedersi sul nostro, come dire, posto magico, sedile magico, e noi lo colpiremo in qualche modo. Direzioneremo l'energia lì. Qualcuno? Nessuno? Ecco. So we have to direct our energies towards Luisa. Quindi direzioniamo le nostre energie verso Luisa. So with the in breath we draw those three energies into the heart. Quindi con la inspirazione noi come dire, attiriamo queste tre energie nel nostro cuore. From above, from our neighbor and within ourselves. Quindi quella dall'alto, quella dal nostro vicino e all'interno di noi stessi. And with the out-breath make our offering for Luisa's good health. E con la ispirazione noi facciamo un'offerta, un augurio di buona salute a Luisa. May you be free of sickness and disease. Tu possa essere libera dai disturbi, dalle malattie. May you be well and strong. Tu possa essere sana e forte. Well, there's no need, I think, to translate. Okay. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Actually. Qualcun altro? Altra? So make our blessings to Anna Caterina. Facciamo le nostre benedizioni per Anna Caterina. The in-breath, those three energies, drawing them into the heart with the out-breath, offering them for her good health. Quindi con l'inspirazione attiriamo queste tre energie nel nostro cuore, con l'espirazione auguriamo buona salute. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. In the same way, offering our good wishes to Isabella. Allo stesso modo, facciamo i nostri buoni auspici a Isabella. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. Good. Anyone else? So now we can bring to the attention of the group anybody whom we know is sick or dying. Allora adesso possiamo portare all'attenzione del gruppo qualsiasi persona che noi sappiamo che sta male o sta morendo. We just have to mention their names. Basta dire i loro nomi. Peter. Albert. Rhoda. So for those who are sick, just offering our blessings, breathing in those three energies, breathing it out towards them. Quindi per coloro che sono malati, offrendo loro la nostra energia. Quindi inspirando accumuliamo queste tre tipi di energia, espirando la offriamo. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. May you be free of sickness and disease. May you be well and strong. And to those who are dying, may they find the courage and equanimity to pass through that experience. Per coloro che stanno morendo, che loro trovino il coraggio e l'equanimità per attraversare quell'esperienza. And see it as part of their process of liberation. Vederla come parte del loro processo di liberazione. And finally, offering our goodwill to all beings in all directions. Infine, offriamo la nostra benevolenza a tutti gli esseri in tutte le direzioni. May all beings be free of physical pain. Possono tutti gli esseri essere liberati dalla sofferenza fisica. May all beings be free of mental distress. Possono essere liberati dalla sofferenza mentale. May all beings be liberated of all their suffering. Possono essere liberati da tutta la loro sofferenza. May all beings live in contentment and joy. Possono tutti esseri vivere appagati e con la gioia. May all beings live together in peace and harmony. Possono tutti gli esseri vivere in pace e armonia. May all beings experience the peace and bliss of Nibbana. Che tutti gli esseri possano provare la pace e la beatitudine del Nibbana. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Feel better? Is it amazing? So now we have some question time, just wrapping up what we need to wrap up. Quindi adesso abbiamo una sessione di risposte, giusto per chiudere quello che dobbiamo chiudere. Can you choose one? Can I read it? Yeah. How would someone confirm or disprove that a monk or anyone else had achieved a spiritual insight? Parenthesis. Does one achieve, reach or have a spiritual insight? Allora, come potrebbe una persona confermare o sconfermare che un monaco o qualunque altra persona abbia raggiunto un insight spirituale? E tra parentesi, ma qualcuno raggiunge o conquista o ha un insight spirituale? No! How does one? Well, I can just. How does one? Well, the second part of the question. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda. This is well delineated in the Theravada tradition. Questo è ben delineato nella tradizione Theravada. There are the vipassana insights leading to a experience of nirvana. Quindi ci sono gli insights di Vipassana che portano all'esperienza del Nibbana. And these are different stages. E questi sono suddivisi in diversi stadi. And then you have to go through that same process four times to become fully liberated. E bisogna attraversare questo processo per quattro volte per diventare poi completamente liberati. And each time you go through one of these processes, one of the fetters disappears. E quindi ogni volta che si attraversa uno di questi livelli, uno dei degli ostacoli, ostacoli, fetters, mano, delle manette. Manette. When a person enters the first stage, that person is called a stream entrant. Quando una persona entra nel primo livello, diciamo, nel primo stadio, diventa colui che è entrato nella corrente. So they've entered the stream passing to Nibbana, the river passing to Nibbana. Quindi sono entrati nella corrente che va verso Nibbana. And they lose belief in the fact that rites and rituals can help them to achieve Nibbana, to achieve liberation. Quindi perdono questa falsa credenza che i rituali e i riti possono condurre al Nibbana. For instance, in the Buddha's time, there was the understanding that if you stood in the Ganges, the holy river would wash away all your karma. Per esempio, ai tempi del Buddha c'era questa credenza che se tu rimanevi nel Gange, allora l'acqua del Gange avrebbe sciacquato via tutto il cattivo karma. There is also the first real understanding of not self. C'è anche la prima comprensione vera del non sé. One at least has a glimpse that one is not the body and personality. Quindi uno ha, se non altro, una fugace visione del fatto che noi non siamo il corpo and the person. E la persona. And the final one is that, of course, having experienced Nibbana, all doubts as to the Buddha's teaching disappears. The final. One has experienced Nibbana, all doubt about the Buddha's teaching disappears. Se quando uno raggiunge il Nibbana, allora tutti i dubbi. Experience. Quando uno fa esperienza del Nibbana, allora ogni dubbio rispetto alla giustezza degli insegnamenti del Buddha sparisce. In the second stage, which is known as the once returner, nel secondo stadio, che cosiddetto di colui che torna una volta sola, meaning they have to go through this life form once more, vuol dire che devono ancora attraversare questa forma di vita una volta. Greed, lust and all the aversions are all lessened a great deal. Quindi l'avidità, la lussuria e tutti gli altri inquinanti mentali si sono ridotti di molto. In the third stage is called the non-returner. La prima fase. The third stage. Il terzo stadio è quello di chi non ritorna. And that means that the person does not come back to this level of being, but continues their work in a higher realm. E questo significa che l'individuo, diciamo così, non torna in questo piano di esistenza, ma va ai regni successivi. Because now all their sensual lust and aversion has disappeared. Perché adesso tutto il desiderio e l'avversione sensoriale, sensuale, yeah. sensi. È sparita. And therefore nothing attracts them here. E quindi non c'è nulla che li attiri qui. And finally, of course, there is the Arahat. E poi alla fine, naturalmente, c'è l'Arahat. And here the last five fetters go. E qui spariscono gli ultimi cinque impedimenti. The first two are attachment to the absorption meditations. Allora, il primo è l'attaccamento alle meditazioni dell'assorbimento. First two. I primi due. The next one is a loss of conceit. Quello successivo è la perdita della presunzione. The I, you see. Io. Vedo. The next one is a loss of all restlessness. Quello successivo è la perdita di ogni irrequietezza. If you remember, I was describing that the process of purification is just a lessening of all the kilesas until they disappear. Come vi ho spiegato, allora il processo di purificazione è questo indebolimento di tutti i kilesa fino a quando non spariscono. So at arahat stage all the restlessness caused by the kilesa disappears. Quindi a livello di arahat tutta l'agitazione che è provocata dai kilesa sparisce. And we can say at the same time, of course, all the sloth and torpor goes too. E possiamo dire che allo stesso tempo anche tutta la pigrizia e il torpore spariscono. So that, for instance, the Buddha needed the bed for only 2 hours. Quindi, per esempio, il Buddha aveva bisogno del letto solo per 2 ore. Except that he did sleep in the afternoon, a little siesta in the hot season. Ah, però nella stagione calda faceva una piccola siesta nel pomeriggio. And the last one is ignorance. All ignorance goes. E l'ultimo è l'ignoranza. Tutta l'ignoranza sparisce. Yeah, and remember it's the ignorance of the three characteristics. E ricordate che questa è l'ignoranza riguardo le tre caratteristiche. Anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha, anatta. So the path is very clearly delineated. Quindi il sentiero è abbastanza chiaramente delineato. And a person who goes through these paths knows where they are. E chi sta attraversando questo sentiero sa a che punto è. The Buddha knew he was enlightened. Il Buddha sapeva di essere illuminato. How can we tell somebody has achieved any of this? Come facciamo noi a sapere se qualcuno ha raggiunto qualcosa di questo? You can't. Non si può. Yeah, but how do you believe it? Si può chiedere, ma come fai a credere? Because they may be deluded. Perché loro potrebbero essere vivere nell'illusione. I'll tell you a little story. Mi racconto una piccola storia. In the monastery where I live, there was an old monk. Nel monastero dove vivo c'era un vecchio monaco. Who wrote his life story, at the end of which he declared himself to be fully liberated. Che ha scritto la sua autobiografia, alla fine della quale ha dichiarato di essere liberato. When he was asked why he got angry with the dogs. Quando gli fu chiesto ma perché ti arrabbi con i cani. He said it was just vasana. Allora lui dice che era solo vasana. Now vasana are leftovers of your personality. I vasana sono gli avanzi della tua personalità. So for instance in the Buddha's time monks complained that there was a Brahmin who used to talk to them as if they were of a lower caste. Allora ai tempi del Buddha c'erano i monaci che si lamentavano di un brahmano, insomma, che si rivolgeva a loro come se loro fossero di una casta inferiore. And of course in the order there was no caste. Nell'ordine ovviamente non c'era nessuna casta. And the Buddha said, well, it's just one of these old habits of speech and stuff that he has. He doesn't mean any harm. Allora il Buddha lo disse dicendo che era solo un'abitudine di parlare in questo modo, ma non ha nessuna cattiva intenzione. Anyway, he then declared that he was going to die of all days on Christmas Day. E lui ha poi dichiarato che sarebbe morto di vecchiaia il giorno di Natale. And leading up to Christmas Day, he wasn't eating and he was even taking sleeping pills. Prima di Natale lui ha cominciato a non mangiare e stava prendendo anche delle pillole per dormire, dei sonniferi. Christmas Day passed, but he was still there. È passato Natale, ma lui era ancora lì. He still declared himself to be fully liberated. E lui continuava a dichiarare di essere pienamente liberato. By this time, all these shenanigans had got the abbot very upset. All these silly things. Allora a quel punto tutte queste stupidaggini avevano veramente disturbato l'abate. So the abbot said, you have to leave, you have to go. E quindi l'abate gli ha detto, devi andare. So he went to live with his son. E quindi è andato a vivere con suo figlio. Two or three months later, he wrote a letter. 2 o 3 mesi dopo scrisse una lettera. And he said that yes, he had been fooled by Mara. Dicendo che sì, lui era stato ingannato da Mara. But he was still enlightened. Ma era ancora illuminato. So ci sono i pazzi, eh? So you cannot tell. Quindi non c'è modo per capirlo. The one person who will be able to know where you're at is your teacher. La persona che sa dire a che punto sei è il tuo insegnante. Because if you stay with a teacher long enough, and you go through these stages, they know that you're going through these stages. Perché se rimanete con lo stesso insegnante per un tempo sufficiente, allora l'insegnante sa che voi state attraversando questi stadi. The Buddha said that if you wanted to know somebody's spiritual height, you had to live with them a very long time. Buddha disse che se volete sapere, conoscere l'altezza spirituale, diciamo, di una persona, dovete viverci per un tempo molto lungo. Because people can be very good actors. Perché le persone possono essere anche dei bravi attori. And just as something extra, we often confuse charisma with true saintliness. E a volte noi confondiamo il carisma con la vera santità. So for instance, if you were to do this loving exercise very, very strongly, you would see that eventually you would begin to beam this beautiful love in all directions. Quindi se voi fate questo esercizio di gentilezza amorevole in maniera abbastanza costante, poi noterete che a un certo punto comincerete ad irradiare questo bellissimo amore in tutte le direzioni. And people who came near you would feel your love. Se si avvicinano a voi sentirebbero questo amore. And before long you'd be giving them lots of money. E quindi poi a un certo punto comincereste a dargli molti soldi. Be careful. Attenzione. Un altro. What are the... Oh, wait a minute. Any questions about that? Delle domande su questo che ha detto. I think, I don't know who has written this question, yes. But I think that also the question was, but does anybody actually reach this realization? Does it? Oh, yes, they do. Because I know in... it says, does what? No, this is, let's say, my... It's her own question. No, it's your own question. Oh, yes. The question that this question... Yeah. Came for you. Okay. I understand. Yes. This is the part that is underlined in the picture. Yeah. Does anybody with name and direction and telephone number... Yeah. ...and reaches this thing? Because sometimes one... Yeah. No, they do. Yes, they do. Vuoi tradurre tu? Traduci tu? No, scusate, cioè la persona che ha fatto questa domanda poi ha fatto venire a me, non so quale fosse la sua intenzione, poi questa sottodomanda, sì. Ma effettivamente a parte quello che sta scritto sulle scritture, c'è poi un essere umano in carne ed ossa che effettivamente arriva a questa fine, a questa comprensione finale? Ma prima parlavi del numero di telefono? Sì, cioè, è vero, cioè, è conosciuto, poi si fa, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si raggiunge, poi si I don't know, I don't... You may know, se vuoi dirlo dopo, lo puoi vedere. Lui... Arahats are very rare, but the lower levels are not so rare. Gli Arahats sono abbastanza rari, però i livelli più bassi non sono così rari. I met... nobody will ever tell you they're fully enlightened. Nessuno vi dirà che è pienamente illuminato. They will say things like, there is no suffering. Diranno cose del tipo non c'è più sofferenza. That's what one very old monk said to me in Thailand. E quello è ciò che mi ha detto un monaco molto vecchio in Thailandia. Who was generally understood to be liberated. Che tutti insomma ritenevano che fosse liberato. And you may come across a monk called Mahabua in your readings. Potreste incontrare un monaco chiamato Mahabua nelle vostre letture. He's very old now. Questo è molto vecchio. Yeah, and he says of himself that before the five khandhas were, he was a slave to the five khandhas. Now they are a slave to him. Allora lui dice che prima lui era uno schiavo dei cinque khanda, adesso loro sono schiavi a lui. So this is one, you know, and he is also generally understood to be. Anche lui è riconosciuto come un arahant. And there are one or two people in Burma who are understood to have reached the final goal. E ci sono anche due persone in Birmania che si dice che abbiano raggiunto l'obiettivo finale, diciamo. It is understood in Buddhism that if there are no more stream entrants, then the teaching will decline into just empty rites and rituals. Allora si dice nel buddismo che quando non ci sono più, non c'è più nessuno che entra nella corrente, allora gli insegnamenti si ridurranno praticamente a semplici riti e rituali. The Mahasi was understood to have reached the third level. Mahasi si dice che abbia raggiunto il terzo livello. All the monks agree that that's the level he had attained. E tutti i monaci concordano che quello era il livello che lui aveva raggiunto. Just by what he said, etc. Dalle cose che diceva. If you read Living Buddhist Masters by Jack Kornfield, I think it's translated. Se leggete di Jack Kornfield, Maestri Viventi di Buddismo, Maestri Buddhisti Viventi. I think they're all dead now. Adesso sono tutti morti, però. But there's one. But they are most of them are. No, la scritta Kornfield. No. If you read the story of Sun Lun, there you will have a very clear description of somebody who has attained the full path. Se leggete la storia di Sun Lun, lì avrete una descrizione chiara di chi ha, come dire, fatto tutto il sentiero completo. Yeah. He's a Burmese monk. Burmese. Shall we do the next question? Next question. What are the important differences among the various methods, e.g. Goenka, of Vipassana meditation? Quali sono le differenze importanti tra i vari metodi, per esempio quello di Goenka, di meditazione Vipassana? Remember that all these Vipassana techniques are only to establish this awareness that we've been establishing this week. Quindi ricordate che tutte le tecniche di Vipassana sono per sviluppare questo tipo di consapevolezza che abbiamo sviluppato in queste settimane. And if you go to Thailand and Burma, you'll come across many techniques. E se andate in Thailandia, in Birmania, troverete tantissime tecniche. The two that have come to the West with any large following has been the Mahasi and the Ubakin technique. Quelli che sono arrivati all'Occidente e hanno un certo seguito sono queste due correnti, la Mahasi e la Ubakin. Actually no, there's a third one, which is the ones taught by the Thai forest tradition. Ce n'è una terza che è quella insegnata dai monaci della foresta thailandesi. Which is very simply watch the breath and everything else which arises and passes away. Che è semplicemente osserva il respiro e tutto ciò che sorge passa. So these other techniques that these teachers have taught are simply more aids to maintain that awareness. Quindi queste tecniche che hanno insegnato i maestri sono solo degli aiuti per mantenere quella consapevolezza. So now you all know what the Mahasi technique is. In the Ubakin technique the center is basically on feelings. Adesso conoscete quella Mahasi. Quella di Ubakin fondamentalmente è centrata sulle sensazioni. Yes, so they maintain their attention just on Vedana. Quindi loro mantengono l'attenzione solo su Vedana. Remember, Vedana is both physical and mental feelings. Ricordate che Vedana sono le sensazioni fisiche e mentali. And one stays within the body, moving up and down, constantly. E uno sta dentro il corpo e lo scorre su e giù, costantemente. And there are various ways of doing it. Sono vari modi per farlo. And again, you're just looking at the three characteristics. Ma di nuovo state solo guardando le tre caratteristiche. They're all rising and passing away. Any relationship of liking, not liking is dukkha. And it's all just happening. It's not me, not mine. Quindi sorgono e passano e ogni relazione con esse è solo dukkha e non c'è né un me né un mio. So that's it really. È tutto qui. If you then also want to know about the Zen tradition, the Soto Zen tradition, this is more that you begin with the spacious mind. Ecco, invece nella tradizione Zen, Soto Zen, altri si inizia con la mente spaziosa. When we first began the retreat, I instructed you on how to do standing meditation with that very open, spacious mind, if you remember. Se vi ricordate, all'inizio del ritiro io vi ho dato istruzioni per la meditazione in piedi, in cui voi avete sviluppato questa consapevolezza aperta. Yeah, remember that? Vi ricordate? So that's the Zen position. So from there you can go to the minute. Quindi quella è la posizione Zen. Da lì poi potete andare alla cosa minuta. And in Theravada it's more the minuscule, we go to the... Oh. Nel Theravada invece si parte dalla particella più piccola per andare alla grande. Basta. Sì, in basta? Sì. Aspetta un attimo. Se, come dice il Buddha, non esiste un sé, un ego, allora perché siamo così diversi gli uni dagli altri? Possibile che questo dipenda solo dai condizionamenti? If, as the Buddha says, there is no self, no ego, then why are we so different one from the other? Is it possible that this would depend only on conditioning? I think this is lies in a misunderstanding of the Buddha's teaching. He didn't say there was no self or no ego. He didn't say there was nothing. Allora, questo nasce da una male interpretazione, un malinteso rispetto agli insegnamenti del Buddha. Lui non ha mai detto che non c'è un sé, che non esista nulla. It's part of the teaching of the three characteristics. Fa parte dell'insegnamento delle tre sulle tre caratteristiche. Yeah. So when we experience something, we're supposed to say to ourselves, this cannot be me, it cannot be mine. Quindi quando noi sperimentiamo qualcosa, noi dobbiamo dire a noi stessi, questo non può essere me, non può essere mio. So this self is just a concept, a wrong concept. Quindi questo sé è solo un concetto errato. But it's this self which creates the wrong relationship to the world. Ma è questo sé che crea la relazione sbagliata con il mondo. And the world, of course, feeds into the self. Feeds? Feeds into. Sì, e il mondo, in qualche modo, entra nel sé. Affects the self. Alimenta, possiamo dire, alimenta il sé. Yeah, feeds the self. So, because of these varying conditions, the self ends up with a different personality. Quindi per via di questi diversi condizionamenti il sé finisce per avere una diversa personalità rispetto agli altri. When a person is fully liberated and this idea of this body, this personality as me disappears. Quando una persona è pienamente liberata e quindi questa idea di questo corpo, questa personalità sono io sparisce. That doesn't mean to say that the personality disappears and they end up just like a blob. Questo non vuol dire che sparisca la personalità e finiscono come un blob. No, they still have that personality, but they're not confused by it. Hanno ancora quella personalità, ma non sono confusi da essa. When the Buddha approached the four disciples, the four friends who had left him, they didn't think that he'd gone mad or... Quando il Buddha si avvicina ai quattro amici, quattro compagni che l'avevano abbandonato, loro non pensano che lui sia impazzito. Or that he was somehow changed his personality. O che lui avesse cambiato la sua personalità. No. The personality, remember, is just a collection of habits. Perché la personalità è solo una raccolta di abitudini, un insieme di abitudini. Yeah. And through the process of liberation, what happens to these habits is that they become purified. E quindi attraverso il processo della liberazione, quello che succede è che queste abitudini sono semplicemente purificate. And are the medium through which these virtues are expressed. Generosity, love, compassion. E sono il mezzo attraverso il quale sono espresse le virtù, la generosità, la compassione, l'amore. Ok. Yeah. Va bene? Va bene? Sì. 9 out of 10. 9 su 10. Questo è un long one. In Italia. Come si può riuscire a far durare il più a lungo possibile i benefici e gli stati mentali salutari di un ritiro una volta rientrati a contatto con situazioni e persone non salutari? Sì. Come ci si deve rapportare con persone piene di avversione, invidia e negatività? Occorre cercare di interagire con esse o tenersene per quanto possibile lontani? Grazie mille. So how is it possible, how can we manage to make these the benefits of the retreat last as long as possible, the benefits and the wholesome mental states once we go back and we get back in touch with situations and people that are not wholesome? How should we relate to people that are full of anger, aversion, greed and negativity? Should we try to interact with them or should we keep away as much as possible? Remember that when we meet people with their kilesa, what they draw out of us is our kilesa. Ricordate che quando incontriamo delle persone con dei chilesa, quello che fanno è tirare fuori da noi i nostri chilesa. Chilesa? Chilesa in italiano? Mental defilement. Mental defilement. Mental defilement. Yeah, any mental defilement. Any of them. All of them and any of them. I chilesa sono gli inquinanti mentali. Yeah. So we cannot say, you see, once you've understood, you cannot say somebody makes you angry. Quindi quando l'avete capito questo, non potete dire che una persona vi fa arrabbiare. Yeah. You can no longer say to your partner, you make me sick. Non potete più dire al vostro compagno, mi fai schifo. Your wife or husband, you cannot say you make me sick. They're not doing it. Mi fai star male, insomma. Non puoi dirlo né al marito né a tua moglie. So the first thing is to take full responsibility for our own hearts and minds. Quindi la prima cosa da fare è prendere piena responsabilità dei nostri cuori, delle nostre menti. And stop blaming others. E smettere di dar la colpa agli altri. So when we are in a situation where we feel there's negativity of any sort, quando siamo in una situazione in cui sentiamo che c'è un certo tipo di negatività, then we must stay very close to our own hearts. We must be aware of any movement in our own hearts, just like in Vipassana. Quindi dobbiamo stare molto vicini ai nostri cuori, dobbiamo sentire tutti i movimenti del nostro cuore, come nella Vipassana. So that when a little bit of irritation comes up, or a little bit of this or that, we don't just sink into it. Di modo che quando sorge un po' di irritazione, noi non ci caschiamo dentro. And we know it, and just like in Vipassana, we put it to the side, and we still have that open-heartedness towards the person we're talking to. E quindi noi la riconosciamo, proprio come nella Vipassana, lo mettiamo da parte e abbiamo ancora quel cuore aperto verso la persona con la quale siamo. Yeah, this is very easy to say. Facile a dire. I have an image which may be of help to you. Io ho un'immagine che potrebbe esservi di aiuto. If you remember the story of Devadatta, the cousin of the Buddha, se vi ricordate la storia di Devadatta, il cugino del Buddha, he determined to kill the Buddha. Che lui era determinato a uccidere il Buddha. And at one point he set a mad elephant onto the Buddha. E a un certo punto lui mandò un elefante impazzito verso il Buddha. And the Buddha held his hand up like this and offered loving kindness to the elephant. E il Buddha alzò la mano così e offrì gentilezza amorevole all'elefante. The elephant, of course, suddenly changed into this lovely big blancmange and turned in front of him and bowed before him. Questo elefante si è trasformato in un beautiful. Come si dice blancmange? Blancmange. Jelly. Ah, ok, una gelatina. E si inchinò davanti una mammoletta. Una mammoletta. E si inchinò davanti al Buddha. Yes, and bowed. And bowed. E si inchinò. Oh, si inchinò. Ok, so here we have a very good. This is a mudra. You'll see it on the Buddha statues. Huh? You see the Buddha statues like this? Ok. This is called the Abhaya posture, the fearless posture. Quindi questa è la postura che vedete a volte nel statuto del Buddha, si chiama Abhaya, fearless. Senza paura. Senza paura. And you don't see it on Theravada statues, but you see it on Mahayana statues, where the other hand is like this. Questo non si vede nelle statue Theravada, si vede in quelle più Mahayana. Yeah. E l'altra mano è così. This mano is a Varada posture. Questa è la postura Varada. And this is the offering, the giving, the generosity. Questo è il dare, l'offrire, la generosità. So sometimes when I'm in a rotten situation, I might imagine this hand right here. A volte quando io mi trovo in una situazione, insomma, sgradevole, io immagino questa mano qui. And all everything that this person is giving me is hitting this hand and going back to them. E tutto quello che le persone stanno mandando verso di me colpisce la mano e gli ritorna. I don't have to receive their gift. Non devo ricevere il loro dono. Yeah. And my attention is on this here, which is staying open to what they're saying, not how they're saying. E quindi la mia attenzione è su questa mano qui, cioè l'apertura a ciò che loro dicono, non come lo stanno dicendo. Yeah. How, what they're saying, not how they're saying. Cosa dicono, non come lo dicono. So somebody, you might have done something which upset somebody, so the upsetness is their problem. Quindi potreste aver fatto qualcosa che fa arrabbiare una persona, e allora questa, diciamo, arrabbiatura che hanno è un loro problema. Not my problem. Non il mio. But on the other hand, if I did something which was not supposed to be done, then, you know, I can say sorry. Ma allo stesso tempo, se ho fatto qualcosa che non avrei dovuto fare, posso chiedere scusa. The word sorry is will often drain any anger. Di solito la parola scusa prosciuga ogni rabbia. Even when you are wrongly accused. Anche quando siete accusati ingiustamente. You say sorry. Voi dite scusa. And then you prove that they were wrong. E poi dimostrate che avevano sbagliato loro. You have to be careful not to manipulate people. Dovete stare attenti a non manipolare le persone. Was that the fullness of the question? I think so. Hai risposto a tutta la domanda? Sì. So the last thing is, should we try to interact with them or keep away? Now here you have a real question. If you know, love, openness, compassion does not mean to say that we allow ourselves to be abused and humiliated. Ecco, qui la domanda era se interagire o meno o andare via dalle persone. Allora, il fatto che si debba dimostrare amore, compassione, eccetera, non vuol dire che noi dobbiamo farci in qualche modo maltrattare o umiliare. So, you know, you can draw a line and say, well, no, this is enough, and then you either leave or whatever is necessary. Quindi deve sempre tracciare un limite, no? E dire no, allora basta, e uno se ne va se non è necessario. Yeah. There was an argument amongst monks over a rule. Ci fu una discussione tra i monaci riguardo a una regola. It was a very big argument. Fu una discussione molto grande. And just to show you what monks and nuns are like, I will tell you what the argument was about. Solo per dimostrarvi come sono i monaci e le monache, vi dirò su cos'era la discussione. It was about whether the water pot in the toilet should be renewed or not. Riguardava il fatto che il cesso dovesse essere sostituito oppure no. If you think of the arguments you've had with friends or partners, you'll see that they're always the most ridiculous things. Se voi pensate alle vostre discussioni con gli amici o col vostro partner, vi renderete conto che spesso sono su questioni proprio ridicole. I remember one of my own family between my mother and father. Me ne ricordo uno tra mia madre e mio padre. Which remains as a huge memory from my early childhood. Che mi rimane come un enorme ricordo dalla mia prima infanzia. He being brought up in the British Army. Lui era cresciuto nell'esercito britannico. Put the polish on the shoes with a cloth. Cioè, mettere lucido da scarpe sulle scarpe con un panno. And then brushed it up with the brush. E poi spazzolare con la spazzola. My mother, being an Italian of course, essendo un italiano, didn't give a damn. Non gliene fregava niente. And so that ensued a most wonderful argument. E quindi abbiamo cominciato un'enorme discussione. She won. E ha vinto lei. Does Buddha say something about this kind of situation? One part of myself wants desperately something and indulges in desiring it. But another part of myself says no and shuts the door to that thing that I desire. How to deal with fear for the future? Now maybe this is the second question. Let me translate my time, sorry. Allora, il Buddha dice qualcosa su questa situazione. Una parte di me vuole disperatamente qualcosa e indulge a questo desiderio, ma un'altra parte di me dice no e chiude la porta a quella cosa che desidera. So, well, this is what we come across on the spiritual path. Beh, questo è quello che noi incontriamo nel sentiero spirituale. That's why we learn to bow. Ed è per questo che noi impariamo a inchinarci. To surrender. A renderci. Because the Dhamma always asks us to do what we don't want to do. Perché il Dhamma ci chiede sempre di fare quello che noi non vogliamo fare. The self wants to do this, but you know. One thing that you can always ask yourself, which is interesting, is if you come across, if you begin to do something which you're not sure is right or wrong. Quindi una cosa che potete chiedervi quando vi trovate in una situazione di dover scegliere tra una cosa giusta o sbagliata. Ask yourself, what would the Buddha do in this situation? Chiedetevi, il Buddha cosa farebbe in questa situazione? And usually it's pretty clear. E di solito è abbastanza chiaro. No matter how painful it is. Nonostante possa essere molto difficile, doloroso. Yeah. But this is our training to go against the flow of the world. Ma questo è il nostro addestramento, andare contro corrente, contro il flusso del mondo. Yeah. You know this phrase, I don't know whether you have this phrase in Italian, but you know to go with the flow. Sì, c'è questa espressione, andare col flusso. Andare con flusso. So somebody sent me a card once, and there was a picture, and it said, only dead fish go with the flow. C'era qualcuno una volta gli ha mandato una cartolina e c'era questa immagine di un fiume probabilmente con la scritta solo i pesci morti vanno col flusso. Con la corrente. Con la corrente. Con la corrente. Only dead fish go with the flow. Very good. Okay, the second was how to deal with fear for the future. Yeah. Allora, la domanda è come affrontare la paura per il futuro. Well, here you have to really just contemplate the law of karma. Qui l'unica cosa da fare è contemplare la legge del karma. And to know that we don't have that much control over the future. Sapere che noi non abbiamo molto controllo sul futuro. Che sarà, sarà. Remember this song, eh? Sì. Che sarà, sarà. So then it's really developing the heart of acceptance and patience. Quindi sviluppare quel cuore dell'accettazione e della pazienza. And the worst that can happen is that you die. La cosa peggiore che ti può capitare è che muori. Which isn't that bad. Che non è poi così male. So you sit with the fear, you sit with the fear, feel the fear, and just know that it's the self imagining something's going to happen in the future. Quindi è stare seduti con la paura e sapere che è solo il sé che immagina qualcosa che accadrà in futuro. Often, for instance, when we fear the loss of our job, for instance. Spesso, per esempio, potremmo avere paura della perdita del nostro lavoro. Then this can create tremendous anxiety about, you know, what will happen. E questo crea un'enorme ansia rispetto a cosa può capitare. So in such cases it often works to actually imagine what will happen. A volte può funzionare proprio immaginare cosa succederà. And that actually you won't die. Effettivamente non morirete. Yeah, you'll still have hopefully somewhere to live, food and clothing. Avrete ancora un posto dove abitare, cibo, cosa da vestire. La possibilità di un lavoro migliore. Indeed. Yeah. Even a chance of a better job. Yeah. It's easier in Europe to do that than should we say in the United States. È più facile farlo in Europa piuttosto che negli Stati Uniti. Because of our social welfare systems. Del sistema sociale, yeah. Insomma, di welfare. Yeah. So we must fight bravely against the Anglo-Saxon economy. Quindi dobbiamo combattere coraggiosamente contro l'economia anglosassone. So not to that. Could you say something about quality vs quantity in incorporating daily meditation practice into a busy lifestyle? Yes, and just like that. Puoi dire qualcosa sulla qualità versus, cioè contro la quantità, no? In opposizione alla quantità, nel incorporare la meditazione quotidiana, la pratica di meditazione quotidiana in un stile di vita molto impegnato, molto indaffarato. So, what I hope this retreat has done a great deal for you is to break down any sense of hierarchy between sitting meditation and doing meditation. Quindi quello che spero, il risultato che spero abbiate ottenuto da questo ritiro è di rompere qualsiasi tipo di gerarchia tra la meditazione seduta e la meditazione nella vita quotidiana. The whole of your life from now on is meditation. Cioè, tutta la vostra vita da adesso in poi è meditazione. And the reason for the morning sitting is just to recontact that level of consciousness. E quindi il motivo della seduta del mattino è solo per rimettersi in contatto con quella consapevolezza. So 20 minutes, 40 minutes is usually a good time. Quindi 20 minuti, 40 minuti di solito è un tempo sufficiente. And a little metta. E un po' di metta. Then, throughout the day, this ability to keep stopping every so often, only for a few seconds even, just to stop. E poi questa abilità durante il giorno sempre di continuare a fermarsi, anche solo per qualche secondo. Yeah, and to let any irritation or any excitement, just let it calm down. E lasciare che ogni eccitazione, ogni irritazione semplicemente si calmi. And then, next thing to be done. E poi fare la cosa successiva. And this will have an enormous effect on your life the more you can do that. E questo avrà un enorme effetto sulla vostra vita più riuscirete a farlo. I definitely, this is one of the first things I experienced when I came across meditation as a teacher. Questa era una delle prime cose di cui ho fatto esperienza quando io ho cominciato a fare meditazione come insegnante. And then in the evening you find a time to sit 20, 40 minutes. E anche la sera trovate un tempo per sedervi, 20-40 minuti. But in my understanding it's best to do it after you come home from work, before you eat. Però nella mia esperienza è meglio farlo quando tornate a casa dal lavoro e prima di mangiare. And just in that small length of time, whatever you've accumulated during the day, some anxiety, some irritation, just let them pass and do the vipassana. E quindi in quel periodo tutto quello che avete accumulato durante il giorno, appunto un po' di irritazione così, lo lasciate andare, fate un po' di vipassana. And then the rest of the evening should be calm and an easy evening. Live contented and at peace with the world. E per il resto della sera dovrebbe esserci questa calma, no? Questo modo di vivere soddisfatti, appagati e in pace con il mondo. And if you are a very excited type, if you that you can't calm down, make sure that you spend a little time before you go to sleep really calming yourself down. Se siete un tipo agitato che ha difficoltà a calmarsi, allora siate cura di trovare un periodo prima di andare a dormire in cui la vostra mente si calma. That's where listening to chanting, even plain chant, Christian plain chant, is very, it's plain chant. Christian plain chant is for me the musical expression of equanimity and calmness. Anche sentire, per esempio, dei canti di chiesa, anche cristiani, no? Prima di andare a dormire, appunto. Questo per lui è quello che si avvicina di più all'equanimità. What is plain chant? Music. Plain chant is English for Gregorian chant. Ah, sì, quindi canti gregoriani. No. Sì. And just to listen to that for 10-20 minutes, Solo ascoltare quello per 10-20 minuti. Sì. Of course, if you can use the breath to calm you, remember I was saying during the retreat to begin to get a taste for neutral feelings. Se ricordate all'inizio del ritiro, io ho detto qualcosa su assaggiare, avere un assaggio di queste sensazioni neutrali, quindi stare sul respiro può anche essere utile se si riesce. Because they immediately calm the mind, calm the mind. Queste immediatamente calmano la mente. Even when you feel panic, if you put your attention on the breath or on just calm sensations in your hands, it will calm you down. Anche quando avete solo degli attacchi di panico, per esempio, se riuscite a contattare il respiro oppure le sensazioni nelle mani, questo vi calmerà. I think this is the last one, yeah? Yes, maybe it's the same, I don't know. And if all this effort I'm doing is useless, if I'm going to die like everybody else, yes, which definitely. Then, is it silly to feel that I'm better than the average man just because I'm doing all these exercises? Say that again? From the beginning? Yeah. And if all this effort I'm doing is useless, if I'm going to die like everybody else, then is it silly to feel that I'm better than the average man just because I'm doing all these exercises? Allora vi traduco, ma non ho capito benissimo. Allora, se tutto questo sforzo che sto facendo è inutile, e che se io morirò come tutti gli altri, allora è sciocco pensare che io sono meglio dell'uomo medio solo perché sto facendo tutti questi esercizi? I don't think we need to think ourselves as any better than anybody else. That brings us into comparisons, judging. No, non credo che noi dobbiamo ritenerci migliori di altre persone, perché quello ci porta a fare confronti, a giudicare. And as you know, there are very good people in the world who don't meditate. E come sapete, ci sono delle ottime persone al mondo che non meditano. Meditation is just a technique, is a way of approaching virtue. La meditazione è solo una tecnica, è un modo per avvicinarsi alla virtù. But the first part is, you know, is it a waste of time because I die? La prima parte che dice è uno spreco di tempo perché tanto devo morire. Well, in a sense our aim is to go, you know, as the Buddha says, to something beyond death. Il nostro obiettivo è quello di andare oltre la morte, come ha detto il Buddha. And that's of course the Nibbanic experience. E quella è naturalmente l'esperienza del Nibbana. So death is just one more experience on that path. Quindi la morte è solo un'altra esperienza su quel sentiero. Sì. Va bene. Okay. Altre questioni? Ultimi? Io ho, if I may, yeah. Because there was one of the previous questions that came to my mind, one problem that I found sometimes in the past. Because I've done quite a few retreats up to and in two occasions, both were 1 month retreats, and they were also very good retreats, because I could somehow deepen my practice and understanding, so they were not bad retreats. Overall, I consider them good retreats, but what has happened, including in the last one I did in May, it happened that at the end of the retreat, my mind was in such an horrible, irritating stage that when I went back home, instead of having good, peaceful feelings, I was very irritating, answering in a bad way to everybody, fighting with everybody, and nobody told me anything because they are polite people, but I could read in their the question, why do you go for the so I really and I was really scared and worried for this. Do you want to say that shortly in Italian, in a short way? No, dicevo che una domanda precedente mi ha fatto venire in mente questo problema, che in un paio, dopo, alla fine di un paio di ritiri che ho fatto, mi è successo che invece di avere una mente pacifica e tranquilla, avevo una mente irritatissima su tutto il furia. Quindi sono tornata a casa e invece di ero di festa e ero litigato con tutti. Allora, nonostante che siamo stati, tra virgolette, buoni ritiri, allora... How did you end those retreats? How did you end the retreat? Come hai terminato questo ritiro? End o end? How did you finish the retreat? What did you do at the end of the retreat? Any matter or anything? Did you just finish? Generally, when I do retreats, I have my personal custom of doing the last hour of every day of the retreat. I do metta, application of merit. So this is what I generally do when I do retreats. Mm-hmm. So I did the same, doing my metta and dedication of merit, which it's quite easy for me to do it independently from the mental state, but first the mental state of being very tense, very easily irritable, very irritable. Yeah. Well, normally speaking, I fasted for 10-15 days after the retreat. If you usually in a retreat, remember, all your kilesas come up. Quindi ricordate che di solito in un ritiro sorgono tutti i vostri chilesa. So it's usually good practice, depending on how long your retreat is, to spend a bit of time coming out of the retreat into your ordinary mind. Quindi è una buona abitudine alla fine del ritiro passare un po' di tempo prima di tornare alla vostra mente ordinaria. So on this retreat I began to pull you out yesterday evening a little bit. Quindi in questo ritiro io ho cominciato a trascinarvi fuori già ieri sera. Yeah. So now, for instance, just when we do a little finishing ceremony, I'd like you all to go for a walk and talk and be happy. after 1 week of misery, we deserve a little happiness. Quindi adesso, dopo una piccola cerimonia di chiusura, vorrei che voi andaste a fare una passeggiata e semplicemente vi sentiste felici dopo una settimana di tristezza. So, yeah. Della merità. Sì. So that's important. And if as you move towards the end of the retreat you feel a lot of stuff coming up, then you know it's going to take an extra day maybe just to let it all quieten down. Quindi alla fine di un ritiro voi sentite che stanno venendo fuori tante cose, allora ci va magari un giorno in più per aspettare che insomma. In the year 2000 I went to do a retreat in Burma. Nell'anno 2000 sono andata a fare un ritiro in Birmania. For 10 weeks. Per 10 settimane. And after about a week this dreadful stuff started coming up. E dopo una settimana è venuto fuori tutta questa roba terribile. And I couldn't really even do slow walking meditation. It just felt terrible within my body. Non riuscivo neanche a fare la meditazione camminata perché lo sentivo nel corpo. And it lasted for about 6 weeks. Ed è durata 6 settimane. And then it slowly began to fade away. Poi lentamente ho cominciato a distorsi. So by the 8th week something had cleared out of my system. Quindi entro l'ottava settimana qualcosa si era liberato. And the last 2 weeks were extraordinarily peaceful. E le ultime 2 settimane erano straordinariamente pacificanti. So sometimes when you do a long retreat you're beckoning the stuff to come up, you know. Quindi a volte quando si fa un ritiro lungo si sta proprio come stimolando le cose a venire fuori. And so you have to gauge for yourself how much time you need to let this stuff slowly quieten down. Quindi dovete un po' sapervi regolare da soli per sapere quanto tempo ci va poi perché queste cose. And if you do this well, you'll keep your friends. E se lo fai bene, poi riuscirai a mantenere i tuoi amici. Basta. Well, it's just the finishing ceremony. I think it's finished. We don't need to record it. I don't think so. Finishing ceremony. Okay.